La logistica di Narciso, di Marco Guastavigna. Autostima e anche minima, capacità di fare teatro sono le componenti essenziali del mio passato di insegnante e supportano ora i miei interventi pubblici. Ancor più da quando nel repertorio è entrata l'intelligenza artificiale. Ripeto che intelligenza è una formulazione per il marketing, affermo che si tratta invece di macchine statistico-predittive, capaci di produrre esiti paragonabili a quelli umani perché catturano e privatizzano la conoscenza con configurazioni e modelli generativi finalizzati al profitto. Si tratta cioè di dispositivi a matrice oligopolistica, energivori, ad alto impatto ambientale, opachi in costruzione e prestazioni, fonte di competizione economica e attriti geopolitici. Dovrebbero diventare, in virtù di consapevolezza civile, iniziativa politica e by design, servizi pubblici aperti, equilibrati, a controllo democratico e vocazione inclusiva ed equa. Vi è poi un altro pericolo, lo iato tra un premium, tomo, docente, studente, famiglia, scuola, che posseggono e impiegano assistenti operativi e cognitivi. Perché hanno investito denaro e impegno, e free, tomo, docente, studente, famiglia, scuola che ne sono privi per rinuncia o impossibilità di sostenere i costi. È infatti indubbio che le macchine statistico-predittive, se usate con equilibrio e attenzione, possono potenziare, conservare e sollecitare capacità importanti. E quindi incrementare il desiderio di mostrare agli altri, per condividere, of course, ciò che si sa fare. Nel caso mio, immagini e video ironici e divertenti, a volte anche provocatori, che prima avrei saputo concepire ma non realizzare. Piacere superato solo dal condurre approfondite ricerche su me stesso con Notebook LM e Perplexity.ai. Per poi diffondere a tappeto i risultati, con la scusa della significatività degli esempi. Altro che sostituzione dell'essere umano, organizzazione e distribuzione della conoscenza sono per me soprattutto occasione per esibirmi.